Ma che a te se ne son tetta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! Lunedì 16 aprile alle 17.42, con un po' di ritardo, inizia Impatto, la trasmissione che dà voce a tutti i comitati, le realtà in lotta contro le nocività per la difesa del proprio territorio. Ricordiamo subito i contatti della radio, allora, per chi volesse mettersi in contatto con questa trasmissione, lo 06 49 17 50 è il numero di telefono. Conto corrente postale, perché come sempre ribadiamo che la radio non campa d'aria, quindi il 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma, dove liberamente potete versare la quota che più preferite. Oppure un altro modo per versare, sottoscrivere a Radio Onda Rossa è quello di andare sul sito ondarossa.info e spingere, cliccare sul pulsante sottoscrivi e quindi sottoscrivere appunto tramite PayPal. La scaletta di questa trasmissione prevede ovviamente degli aggiornamenti su quella che è la questione legale rispetto al minorenne arrestato sabato scorso ad Albano e quindi qualche informazione aggiuntiva anche sul corteo di sabato. Poi, rimanendo sulla questione rifiuti, parleremo invece di quello che è la situazione Malagrotta, quindi il post Malagrotta e la chiusura della discarica più grande d'Europa, che ovviamente sta facendo molto discutere in questi giorni. E legandoci a quello che invece è stato il movimento Nottav Romano, a come si è susseguito, svolto in quest'ultima settimana di iniziative e mobilitazioni a partire da giovedì scorso a San Lorenzo sino al corteo di sabato ad Albano, arriveremo a parlare invece di una situazione un po' più lontana in quanto a distanze, ci riferiamo all'Ilva di Taranto e tutta la situazione dell'inquinamento nella zona di Taranto e provincia, cercando di metterci in contatto anche con alcuni compagni che stanno preparando delle assemblee da quelle parti e che domani avranno invece un'importante iniziativa pubblica. 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. E allora torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come anticipato, iniziamo allora a parlare della questione di Albano, appunto, perché sabato scorso c'è stato un importante corteo che ha visto una vasta partecipazione popolare, non solo locale, dei comitati di zona, quindi di Albano, Cecchina, Roncigliano e limitrofi, ma anche partecipazione dal Lazio, quindi ricordiamo Fiumicino, Cerveteri, la Valle del Sacco, Colleferro, insomma molti altri comitati, nonché una grande componente invece dalla capitale, da Roma. Corteo che si è svolto abbastanza bene per le strade della città, con una conclusione un po' inaspettata, perché spontaneamente un folto numero di manifestanti giunti alla parte conclusiva della manifestazione che si doveva tenere a Piazza Mazzini ha proseguito spontaneamente via Olivella, che è una strada diciamo adiacente, molto vicino all'Appia, e di lì ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine, che hanno tentato di fermare diciamo questo tentativo di blocco, di spostamento. Da lì la situazione è un pochino degenerata nel seguito, perché il corteo si è concluso relativamente bene, a parte queste scaramucce, così possiamo chiamarle, questi piccoli tafferugli, però c'è stata una caccia all'uomo seguente nelle strade di Albano, in particolare una caccia a un minorenne sostanzialmente, che è stato individuato dalle forze dell'ordine ed è stato bloccato di lì a poco. Quindi hanno cercato di portarlo in commissariato di polizia, c'è stata una resistenza da parte degli abitanti del posto e delle persone, diciamo, si sono messi a cercare di far sì che questa cosa non accadesse in maniera molto tranquilla, cercando di parlare con le forze dell'ordine, spiegandogli che era solo un ragazzo minorenne, che non aveva fatto nulla e via di seguito. Però non è bastato, alla fine le forze dell'ordine hanno ritenuto che il loro lavoro era quello di portarlo nel commissariato e così hanno fatto sostanzialmente. Quando si è poi giunti sotto al commissariato per aspettare il verdetto, diciamo per aspettare che questo ragazzo venisse rilasciato, c'è stata un'identificazione collettiva da parte delle forze dell'ordine ai danni dei manifestanti che erano lì sul marciapiede senza ostacolare la viabilità della strada, e hanno identificato all'incirca una trentina di persone che erano appunto i presenti sotto al commissariato a dare solidarietà a questo ragazzo minorenne, ricordiamo che era trattenuto in stato di fermo. Purtroppo le sue condizioni, diciamo, giuridiche sono rimaste tali, nel senso che è stato confermato il fermo, l'arresto, almeno fino al processo che si dovrebbe tenere mercoledì mattina. E in questo momento si trova in una casa famiglia a Roma, perché essendo un minorenne l'avvocato è anche riuscito a far sì che non andasse a finire nel carcere minorile. Quindi questa è la situazione del ragazzo trattenuto, le altre persone sono state identificate ma poi subito rilasciate. Sì, poi aggiungiamo che ancora adesso non si capiscono con chiarezza, cioè veramente non si sanno le accuse precise con cui che vengono addebitate a questo ragazzo, e insomma si parla già per mercoledì di un'udienza per direttissima. Quindi da qui, insomma, mercoledì ci saranno tutte le novità in relazione a questa situazione. Noi esprimiamo la più completa solidarietà a questo ragazzo e insomma speriamo, insomma, di rivederlo spesso, presto alle nostre manifestazioni, e insomma di rivederlo presto a casa, vicino a tutte le persone care che, insomma, gli vogliono bene e gli stanno vicino. Prima, insomma, di continuare a parlare della questione dei rifiuti, della manifestazione d'Albano e del post Malagrotta, ma leggiamo il comunicato ufficiale che è uscito quest'oggi a cura del comitato del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, dopo, insomma, un paio di giorni un po' nevrotici da parte della stampa locale e non localissima e locale, visto che, insomma, parlare di stampa nazionale è abbastanza più che esagerato, insomma da stampa locale e localissima c'è stato un po' di nervosismo, un po' di nevrosi, si parla di spaccature e incomprensioni varie. Secondo noi il comunicato fatto dal coordinamento cerca un po' di dipanare il fumo degli occhi che viene in maniera costante e continua. Siamo abituati a questo tipo di operazioni ogni qualvolta ci troviamo di fronte a situazioni di detenzioni, di tensione, forzature e tutta una serie di sempre in situazioni in cui logicamente per forza di cose i rapporti di forza che si mettono in campo c'è bisogno insomma di far sentire la propria rabbia, la propria frustrazione e il proprio dissenso rispetto a delle scelte che poi tra l'altro non sono proprio molto trasparenti. E le prossime settimane intensificheremo sicuramente l'informazione su questo punto di vista, perché poi tra l'altro le nostre ragioni vanno avanti e le iniziative contro il progetto di inceneritore, contro l'allargamento della discarica continuano e le prossime iniziative già sul fine settimana ci saranno altre scadenze. Il comunicato stampa uscito oggi sabato 14 aprile è stata una grande giornata di partecipazione, di mobilitazione e di lotta. Le strade di Albano si sono riempite di cittadini, comitati di quartiere, rappresentanti dei comuni, dei castelli romani, collettivi studenteschi e reti sociali che si battono su tutto il territorio laziale contro un piano regionale dei rifiuti basato su discariche e inceneritori. È stata la risposta migliore a chi da giorni dava definitivamente persa una battaglia che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, ha dimostrato tutta la sua vitalità e determinazione a continuare il percorso fin qui intrapreso. Alcuni casi addirittura pare che l'inceneritore è già costruito, su alcuni giornali, quindi insomma Si dicono l'ultimazione dei lavori dell'inceneritore di Albano. Sì, in realtà per ora nemmeno i soldi nostri ci sono per fare questa operazione, poi ne torneremo a parlare. Per tutto il corteo molti sono stati gli interventi e le testimonianze di chi vive intorno a Roncigliano. Insomma, qui ci teniamo a precisare perché per quasi due giorni il TG3 laziale ha continuato a ripetere Ronciglione, che è un comune che sta per Viterbese e non la località Albano Roncigliano, denotando insomma una spiccata incapacità e una spiccata invece capacità a fare disinformazione in maniera continua. E talmente spiccata questa capacità che insomma si fanno anche errori molto grossolani. Lo scempio del settimo invaso, l'allargamento della discarica, l'inquinamento delle falde acquifere. La volontà popolare ha ribadito anche una volta: non basta con discariche e inceneritori né qui né altrove. Differenziata subito e netta contrarietà al piano regionale dei rifiuti proposto in questi giorni e al centro del dibattito con l'intervento dello stesso ministro Clini, lo stesso che aveva anticipato la sentenza del Consiglio di Stato che sbloccava l'inceneritore di Albano. Purtroppo, prima che l'assemblea conclusiva del corteo iniziasse, le migliaia di persone che man mano arrivavano a Piazza Mazzini hanno trovato un ingiustificabile schieramento di forze dell'ordine, come sin dalla prima mattinata per tutte le strade di Albano. In prossimità di Villa Doria, quando il corteo continuava il suo percorso, è partita una carica delle forze dell'ordine, tra l'altro creando panico e paura. Purtroppo una signora, a cui va tutta la nostra solidarietà, ha avuto una frattura alla caviglia e oltre ad alcuni contusi. Come se non bastasse, l'ingiustificato nervosismo delle forze dell'ordine si è manifestato anche a conclusione del corteo, mentre quattro studenti, di cui due minorenni, stavano tornando a casa, sono stati fermati e aggrediti dalla Digos di Roma con la giustificazione di un normale controllo. In realtà la reale intenzione era mettere in stato d'arresto uno dei due studenti minorenni e, a loro dire, responsabile di aver lanciato piede contro le forze dell'ordine e responsabile del ferimento di un agente. Il tutto si è consumato sotto gli occhi increduli di tanti cittadini di Albano, un presidio spontaneo sotto il commissariato di Albano per richiedere l'immediato rilascio dello studente. Dopo pochi minuti si è trasformato in una nuova caccia ai manifestanti. In quasi i quasi 30 membri del nostro coordinamento sono stati accerchiati dai blindati di polizia e carabinieri per poi essere identificati. Anche alcuni giornalisti presenti hanno ricevuto lo stesso trattamento e alla fine la polizia ha confermato l'arresto per uno dei due ragazzi minorenni fermati in attesa del processo che dovrebbe tenersi mercoledì. Inoltre è da sottolineare come la stampa nella giornata di domenica abbia diffuso in modo uniforme le stesse notizie prese direttamente dalle veline della questura, riportando anche gli stessi errori. Nessuno di noi ha mai pensato di fare una marcia di almeno 5 km verso la Nettunense. Solo chi non conosce il nostro territorio può scrivere queste cose. La risposta è chiara: dopo la sentenza del Consiglio di Stato il segnale è quello di creare intimidazione e paura. Si cerca così di criminalizzare chi si batte a difesa del proprio territorio, dipingendolo come chissà quale pericoloso sovversivo. Oggi l'unica colpa che abbiamo avuta è stata quella di aver manifestato anche una volta con determinazione contro la devastazione ambientale, a difesa della salute e dell'ambiente di tutti noi. Continueremo a lavorare e ad informare la cittadinanza come sempre attraverso ricorsi legali, assemblee, sit-in per bloccare la folle costruzione dell'inceneritore di Albano. Liberi tutti. E quindi questo era il comunicato che è stato pubblicato quest'oggi dal coordinamento contro l'inceneritore. E appunto, insomma, si affrontano tutte le questioni un po' più spinose della giornata. E si denuncia anche il comportamento della stampa. Prima tra tutti, forse è il caso di ricordare il Messaggero, che per mano di Valentini e altri, diciamo, giornalisti raccontano, aprono questi articoli con scenari da guerriglia, e queste cose fanno pensare due cose fondamentali: o che questi giornalisti non stavano in piazza fondamentalmente, oppure che completamente si sono svenduti poi a quelli che sono gli interessi di Cerroni e di chi fa gli interessi di Cerroni, quindi pensiamo alla regione e a tutti gli altri a seguire. Certo che poi un bell'articolo con un bel titolo roboante fa vendere di più il giornale, e quindi fa sempre più comodo, soprattutto poi in provincia dove queste cose succedono raramente. Però insomma, un altro segnale, un altro dato di fatto è che proprio la provincia da parecchi anni a questa parte è quella che subisce maggiormente l'aggressione del proprio territorio, un'aggressione fatta di progetti industriali sconsiderati, e proprio la provincia probabilmente sta maturando una coscienza per rigettare proprio questi progetti industriali che tanto la stanno facendo soffrire. E forse non è un caso che proprio in tutti questi mesi, dopo che sono stati nominati decine e decine di siti per la nuova discarica di Malagrotta, in tutti questi siti, tutti poi tra l'altro quasi tutti della provincia di Roma, spontaneamente si sono formati comitati di cittadini, della popolazione, proprio per battersi contro l'apertura di una discarica sul proprio territorio, consci del fatto che una operazione del genere per quel territorio equivale a un disastro. Per un disastro che poi insomma avrà conseguenze nel tempo non lunghe ma lunghissime. La contaminazione che porta una discarica non può essere risolta come pretendono l'Orsiglioni con un bel capping, come dicono loro tecnicamente, ma per centinaia di anni i percolati si sverseranno dentro le falde acquifere, provocando tutti i problemi che insomma qui da questi microfoni abbiamo raccontato più volte. Quindi è evidente che insomma tutto il tessuto sociale che insomma si sente aggredito da questo tipo di operazioni, e insomma non era scontato, ma insomma in tutta la regione tutti i siti sta creando comunque un forte fronte di resistenza che comincia anche a parlarsi, no, più del solito, perché non era la prima volta che comitati si trovavano a partecipare alla stessa manifestazione, comitati che provengono da realtà del territorio laziale completamente diverse. Quindi questo è sicuramente un buon auspicio. Questo lo sanno bene anche le forze dell'ordine, che con l'atteggiamento molto nervoso, diciamo, che hanno tenuto in piazza sabato, cercano in qualche modo di tra virgolette limitare quelli che sono per loro i danni, ovvero cercare di limitare il più possibile l'auto-organizzazione e l'unione tra le varie realtà. per diciamo fare un po' il punto sulla situazione di sabato, è anche il caso di dire che sono uscite a livello giornalistico notizie riguardanti presunte 43 denunce ai danni di manifestanti, che però diciamo rimangono delle notizie dal punto di vista giornalistico, nel senso che noi non abbiamo avuto notizie dirette da parte della questura né da parte degli avvocati che stanno seguendo la cosa di 40 o insomma un numero diverso di denunce che sono partite. Una velina della questura avrà riportato questo, e comunque il Messaggero e Repubblica hanno riportato sui loro giornali. Sì, poi c'è da notare come proprio Repubblica, che praticamente a questo tipo di iniziative, specialmente il quadrante d'Albano, non fa mai menzione, non le cita mai, evidentemente per ossequio nei confronti di Maglio Cerroni, che è un bel grosso finanziatore del Partito Democratico, e invece per l'occasione un paio di articoletti l'ha fatti uscire. Poi quando magari si parla delle magagne del Sor Cerroni stanno sempre zitti, invece qui sulla questione della manifestazione e degli incidenti insomma non si è fatto mancare l'articolo criminalizzatore insomma che di solito insomma pubblicano questo giornale. Ci viene poi pure da pensare che si cercano di fare pure delle divisioni un po' maldestre, tipo antagonisti castellani, antagonisti romani, gente venuta da fuori, persone non gradite, facinorosi, che alcune volte insomma sono più che altro esercizi di scrittura, perché sì, insomma un territorio pesantemente conurbato come quello dei Castelli Romani, dove la città di Roma sta... No, ma infatti divisioni che insomma abbiamo visto anche fare in altre occasioni, ma che rispetto alla giornata di sabato sono davvero davvero forzate, perché insomma non c'è stata assolutamente questa spaccatura, e né le spaccature di cui parlano rispetto al movimento No Inch dei Castelli Romani, che è diviso, non è assolutamente vero. Le assemblee che ci sono state continuano ad essere compatte ed unite, quindi queste sono dicerie dei giornali che appunto asserviti agli interessi dei potenti in qualche modo cercano di dividere come sempre. Vabbè, ma perché io ho letto su un social network che ho riportato il virgolettato di un social network, che è la grande insomma moda del momento per cercare di gettare discredito, che insomma è pure una pratica abbastanza squallida, quella di fare il virgolettato delle dichiarazioni delle persone sui social network. Sì, che poi magari uno fa una dichiarazione a titolo personale e poi viene interpretata come una dichiarazione di un intero movimento. Cioè io sul social network magari ci scrivo considerazioni mie, che non è detto che siano considerazioni del comitato, del coordinamento e via di seguito. Vabbè, su queste riflessioni noi chiudiamo un po' la questione Albano e vi lasciamo con una canzone. Ci sentiamo tra qualche minuto, quindi... Bianco dal cervello al basso ventre. È questo che mi spinge, questo mi distingue. L'ultimo esemplare di una specie che si estingue. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come il trapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come il trapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come il trapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come il trapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. E rientriamo in voce alle 18:07, sempre da Impatto, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Parlavamo appunto del corteo di Albano, corteo che ha visto, come accennavamo, la partecipazione anche di molti altri comitati del Lazio che sono nati o che già esistevano da tempo per in seguito ai vari proclami della regione rispetto ai nuovi siti che dovrebbero ospitare le discariche provvisorie o definitive in sostituzione di Malagrotta. Il caso Malagrotta è ormai insomma arcinoto qui nel Lazio. Si sventola la bandiera dell'emergenza e con questa bandiera in mano le istituzioni, la regione, il ministero, il Consiglio di Stato si sentono legittimati a ignorare le volontà delle popolazioni che abitano i territori, così come recita anche proprio la sentenza del Consiglio di Stato, che lo ricordiamo, oltre a invalidare la sentenza del TAR che aveva bloccato la costruzione dell'inceneritore, dice a chiare lettere che la competenza è semplicemente della regione per quanto riguarda le decisioni sulla gestione dei rifiuti e i comitati territoriali, i cittadini, tutti coloro che vogliono opporsi all'opera a ragione non hanno assolutamente legittimità e voce in capitolo. Allora, per questo ricordiamo che c'è stata giovedì 12 un'assemblea proprio per quanto riguarda la questione rifiuti nel Lazio, un'assemblea che si è svolta al presidio Nottav nella seconda delle quattro giornate che hanno visto il movimento romano Nottav impegnarsi in varie azioni, assemblee, cortei e momenti comunicativi, non ultimo il corteo di Albano, a cui ricordiamo c'era anche uno spezzone proprio Nottav e a cui hanno partecipato tutti i comitati, molti dei quali si erano visti proprio giovedì in piazza dell'Immacolata a San Lorenzo per discutere della monnezza. E parlando appunto parlavamo prima delle divisioni tra romani, castellani, provinciali eccetera eccetera, bene, il messaggio che è uscito chiaramente giovedì all'assemblea è che per quanto riguarda la lotta all'attuale gestione dei rifiuti è necessaria e opportuna, diciamo così, compattezza per quanto riguarda la provincia e Roma, perché lo ricordiamo, a Roma a produrre il 60% dei rifiuti del Lazio, mentre le altre province appunto compongono il restante 40, ma in percentuali evidentemente minoritarie. Quindi l'assemblea di giovedì è andata molto bene, appunto con il comitato di Riano, il coordinamento rifiuti zero di Cerveteri, il coordinamento contro gli inceneritori di Albano e l'assemblea romana Nottav, tutti convinti nel portare avanti insieme questa battaglia che è allo stato attuale in attesa, diciamo così, del verdetto del tavolo tecnico che si sta tenendo in queste settimane al Ministero dell'Ambiente tra Ministro dell'Ambiente Clini, lo ricordiamo grande fautore degli inceneritori e grande sponsor delle centrali nucleari, tra la Presidente della Regione Polverini che goffamente insomma cerca di ritagliarsi il suo pezzetto di guadagno e il Prefetto Pecoraro che si è distinto per la capacità di gestione di queste emergenza, tanto che i due siti per le discariche provvisorie che avevano scelto si sono dimostrati assolutamente non validi anche da un punto di vista tecnico, diciamo così, cioè noi ci opponiamo alle discariche non per ragioni tecniche ma perché vanno a devastare i territori e perché un'alternativa c'è ed è la riduzione del consumo, il riciclo, la riuso, la differenziazione, mentre le uniche scelte che si portano avanti qui sono l'ammassamento, l'incenerimento, insomma soluzioni abbastanza molto poco intelligenti. Insomma, questo tavolo tecnico che si è svolto anche giovedì scorso, c'è stato anche un presidio di alcuni comitati territoriali sotto al Ministero come ogni giovedì ormai da un po' di tempo, e anche l'Assemblea Romana Nottav ha fatto un salto al presidio volantinando l'Assemblea Pomeridiana a cui poi i comitati hanno partecipato. Ebbene, da questo presidio, da questo tavolo di giovedì scorso non è uscito nulla di fatto, se non che entro il 30 aprile usciranno i nuovi siti per le discariche provvisorie, perché sembra che Quadro Alto e Corcolle siano ormai fuori gioco. Però questo non ci tranquillizza, perché gli altri siti in questione sono siti come per esempio Pian dell'Olmo, che si trova a pochi passi da Quadro Alto e fa sempre parte di quel quadrante in cui ci sono sempre le solite cave di tufo di cui ancora attive, di cui abbiamo largamente parlato, e rimane comunque in campo l'opzione di Pizzo del Prete. Certamente l'incontro è slittato al 30 aprile, probabilmente uno dei problemi maggiori che il tavolo tecnico sta incontrando è, come insomma la lettera di Federambiente di qualche settimana fa descriveva abbastanza bene, il problema è trovare i soldi per poter fare questi scempi. E parliamo di 650 milioni di euro. È una bella cifra, è una bella cifra che probabilmente in un momento come questo di grave crisi economica, insomma la borsa due giorni fa ha fatto l'ennesimo tonfo, non è tanto semplice da trovare, e soprattutto non è tanto semplice garantire i prestiti e gli interessi bancari su un'operazione così traballante. E quindi insomma, dopo che il Consiglio di Stato ha sbloccato il progetto e tutto quello che poi riguarda lo smaltimento dei rifiuti è bloccato, perché poi i soldi pubblici per fare questa roba non ci sono. E poi insomma ci teniamo a ribadire che, come poi spesso i giornali continuano a scrivere, i soldi per far fare gli investimenti ai privati, cioè i soldi nostri vengono usati per far fare un investimento a qualcun altro, che è un controsenso linguistico veramente fenomenale. Però si continua a ripetere sta favoletta che servono 650 milioni di euro per far fare gli investimenti a qualcun altro, cioè che, ma se i soldi sono i nostri, l'investimento al massimo facciamo noi, o comunque sia il settore pubblico. Però a quanto pare non è così, questi soldi verranno regalati a chi insomma riesce ad accavarrarsi questa fetta del mercato dello smaltimento dei rifiuti. Insomma, c'è tanta strada da percorrere per impedire che discariche e inceneritori continuino o vengano aperte dei nuovi, continuano a inquinare oppure nuove inquinino il nostro territorio. Insomma, invitiamo tutti a tenere alta l'attenzione, a informarsi e a cercare di organizzare assemblee, dibattiti sull'argomento nella città di Roma, che proprio perché essendo il maggiore produttore poi di rifiuti del Lazio è uno snodo molto importante nel quale si gioca un pezzo della partita tra i più importanti. Ridurre la quantità dei rifiuti prodotta da Roma sarebbe già il segnale per il cambiamento della strada, che invece per ora prevede soltanto inceneritori e discariche, e tutto il resto delle alternative sono tutte al palo. Poi insomma c'è il capitolo raccolta differenziata, che insomma preso così com'è c'ha poco senso, ma insomma nella città di Roma questo tipo di operazione sta avendo grossissimi problemi. Magari noi ci lasciamo per prossime settimane per dare un quadro più completo della situazione della raccolta differenziata a Roma e dei progetti, dei tentativi sperimentali che sono stati fatti in alcuni quartieri, eppure poi dei fallimenti che già si vedono alle porte. Allora mandiamo un pezzo musicale, poi nel frattempo ci colleghiamo con un compagno di Taranto, perché come accennavamo in scaletta parleremo di un tavolo che si svolgerà domani per quanto riguarda la grave condizione di inquinamento in cui versa Taranto per la presenza dell'Ilva, che tutti conosciamo, e non solo del porto, che vede spesso passare navi che trasportano petrolio che a volte lo sversano troppo spesso. The revolution's per minute. This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing all our alarms, without overflowing cars, without emptying the bars, without doing with your choice. 60 revolutions per minute. This is my regular need. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? I'm gathering new generation that's gonna stand up to it. To this karaoke dictatorship, where posers and models with guitars boogie to the shit for beats. I make a better rock revolution alone with my dick. Se ha muerto el policía. Pese a lo que digan, ya está todo arreglado. Digas lo que digas, ya te mandan deportado. El que tiene impone sobre la ley dispone, mientras que el pobre es pobre, pobre, pobre, y otro se la come, come. Pobre, pobre, pobre, pobre, y otro se la come, come. Pobre, pobre, pobre, pobre, y otro se la come, come. Solidero nazionale sta ruba Cuba. Allora torniamo sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa da Impatto a parlare della questione di Taranto e provincia. Come accennato, purtroppo sappiamo dalla cronaca, si è parlato anche di questa cosa dai microfoni, da questa trasmissione, ma anche da trasmissioni precedenti che ci sono state negli anni scorsi, di tutta la situazione che riguarda appunto l'inquinamento della povera cittadina di Taranto e della sua provincia, causata principalmente da aziende, dall'azienda siderurgica dell'Ilva, che comunque ha delle emissioni in atmosfera molto molto pesanti, da diossine, da anche, diciamolo, anche da una gestione rifiuti che lì in tutta quella zona vede la presenza di alcuni inceneritori nella zona, non vicinissimi proprio a Taranto, ma che comunque stanno sempre sullo stesso territorio, nonché da pochi giorni c'è questa notizia nuova, ma che ritorna, perché nel passato già c'era stata una faccenda simile, ovvero hanno trovato valori di diossina e PCB nei frutti di mare al di sopra di quelle che sono le quantità limite consentite dalla legge. Diciamo subito che questi frutti di mare, quindi prevalentemente cozze, che hanno questa contaminazione, che è uno sforamento di più del 69% rispetto al limite di legge, è relativa a quei frutti di mare che sono stati trovati sul fondale e quindi non sono, tra virgolette, così a rischio invece quelli che sono gli allevamenti dei pescatori che coltivano questi frutti di mare su, diciamo, quasi a livello della superficie del mare, o comunque a poche decine di metri sotto il livello della superficie del mare. Però ovviamente questi pescatori sono molto preoccupati per la situazione, così come erano preoccupate le persone che producevano il formaggio locale qualche tempo fa e che scoprirono anche lì valori di diossine e PCB superiori ai limiti di legge, 19,5 microgrammi rispetto agli 8 invece che sono quelli consentiti dalla legge. Noi siamo in collegamento con un compagno dei comitati vicino, diciamo, di Taranto, che sono comitati auto-organizzati composti da realtà sociali, da centri sociali, comitati di quartiere, ma anche collettivi delle scuole, che da tempo ormai si mobilitano e che, riuniti in una sorta di, se vogliamo, coordinamento o comunque gruppo di comitati, rappresentano l'unica o una delle poche realtà auto-organizzate sul territorio tarantino e di provincia, che si battono su questioni ambientali, ma non solo, anche su questioni del lavoro, perché poi la fabbrica dell'Ilva comunque ha purtroppo un passato anche su questioni lavorative di sfruttamento di lavoratrici e lavoratori che non è affatto felice. Quindi noi intanto salutiamo Giuseppe, benvenuto a Onda Rossa, ciao, ci senti? Ciao a tutti. E quindi volevamo sapere, noi leggiamo, diciamo, anche dalle vostre note che state cercando di partecipare a un tavolo che si dovrebbe tenere appunto domani pomeriggio, un tavolo tecnico sull'emergenza Taranto, perché proprio di emergenza è il caso di parlare. Ovviamente ormai questa città è nota alla cronaca nazionale per il grande inquinamento che ha dovuto a varie cose, alcune delle quali le abbiamo poco fa elencate, e so anche che avete un'assemblea pubblica, diciamo, in corso questo pomeriggio. Quindi volevamo sapere da te, farci raccontare appunto come siete nati. In realtà questo è, se vogliamo, il primo collegamento che facciamo, almeno quest'anno, con questa realtà che si muove a Taranto, con questa realtà. Non è il primo per Radio Onda Rossa, che ne ha parlato diversamente diverse volte, però vorremmo sapere appunto qual è la questione del tavolo e come vi state muovendo sul territorio rispetto a queste tematiche di cui abbiamo parlato. Ci sentiamo la prima volta come assemblea popolare, perché, come dicevi bene tu prima, è un cartello di espressione, di realtà, di soggettività, diciamo, che nell'area dell'auto-organizzazione, dell'autogestione, sia delle vite che delle risorse, cercano di mettere insieme degli elementi per riuscire a costruire alternativa poi concreta e reale sul territorio, perché parliamo anche di alcuni percorsi e passaggi di esperienza concreta. Dico, fuori dal fallimento del sistema partitico, fuori da questa pseudo capacità di alternativa attraverso liste civiche o quant'altro, ma sostanzialmente siamo un'assemblea popolare, appunto, perché crediamo che qualsiasi tipo di tavolo, qualsiasi tipo di scelta per il futuro di questa città dipenda molto da quello che noi riusciamo a dare come espressione di massa, e non da quanto si riesca a dare nei tavoli preposti o delle pubbliche amministrazioni o di chi poi su questa città ha interessi nazionali. Vedi il caso dell'acciaieria, vedi il caso delle 72 discariche a cielo aperto, e poi c'è un elenco lunghissimo di siti di nocività industriale, c'è la Marina Militare che ancora possiede l'80% delle coste tarantine, abbiamo una base navale più grande d'Europa, se non altro che ci hanno chiamato il quinto occhio del Pentacolo, ci camminano sommergibili a propulsione nucleare, e chi più ne ha più ne mette. Ce n'è per tutti, praticamente. Sì, è il ritmo di questa città, è una città fortemente caratterizzata da un punto di vista militare, ovviamente da un punto di vista strettamente di controllo sociale di questo tipo di risorse, è pluriattaccata ormai da decenni, quindi alcuni tipi di esperienze come quelle che stanno nascendo e sempre nasceranno, perché è una città che comunque ha vissuto 60 anni di industria, vuoi che la classe operaia o che sia per loro trova in questo momento anche il tempo non necessario per stabilire i propri ritmi, però ci sono tantissimi figli degli operai che con la fabbrica hanno vissuto negli anni 70, la continuano a vivere, è una città che vive fra un tasso di disoccupazione enorme e delle possibilità che ruotano intorno solamente alla monocultura industriale e, diciamo, all'asservimento militare del territorio. Sì, tra l'altro leggiamo di qualche giorno fa la notizia di un altro sversamento di petrolio nel porto di Taranto, giusto? Di una motonave panamense che era diretta all'Ilva e insomma si sono confusi, invece di aprire i bocchettoni dell'aria hanno aperto i bocchettoni del petrolio e hanno sversato 20 tonnellate di greggio in un'area di 800 metri quadri, quindi è diciamo un allarme costante. Ormai sì, perché poi come tempo fa dicemmo il sud è da sempre stato la pattumiera dell'Italia sotto questo punto di vista. Ovviamente chi sversa, chi produce questa, chi produce il rischio per questa città non è che incappa in, in processi che sono sono liberi di comunque di riuscire a toglierci il territorio sotto tutti i punti di vista, cioè qui terra noi per noi non ce n'abbiamo più, cioè nel senso chiunque possa arrivare e parliamo del Mar Grande, di questa nave panamense che ha sversato 20 tonnellate di cui sono riuscita a riportare in cisterne almeno la metà. Poi il resto è tutto confluito anche vicino alle isole, poi le isole che ci abbiamo sono occupate dalla marina, dove c'è la Posidonia, c'è un sistema anche marino abbastanza delicato, se parliamo di Mar Grande. Se poi continuiamo a parlare di Mar Piccolo, che è diciamo l'insenatura quella artificiale che dopo il ponte girevole, la marina sta ancora dentro lì e continua a sversare idrocarburi, continuano a sversare. Infatti c'è stato tutto questo bailam sulla questione dei cozzaroli. Come sì, è proprio lì che sono stati trovati questi frutti di mare contaminati. Forse proprio a causa degli sversamenti della Marina Militare a cui fai riferimento praticamente. Perché se qualcuno è stato a Taranto riesce a capirlo, abbiamo l'Ilva a 3 metri da un quartiere che si chiama Tamburi. Poi c'è il Mar Piccolo dove la marina, dove le navi della marina stanno a 50 metri dai pali delle cozze. E quindi sostanzialmente è normale che dopo 60 anni di scempio qualcosa succeda. E non è solamente una questione della miticoltura. Poi su questo ci hanno un po' ballato perché fra interessi e speculazioni varie hanno ben pensato di trasferire i cozzaroli al Mar Grande, ma questo ancora non è successo, perché sarebbe da ricostituire poi il patrimonio genetico della costa, perché sarebbe un'altra cosa, mo tecnicamente non ve lo spiego, però sarebbe un'altra cosa rispetto al Mar Grande, sarebbe un'altra cosa rispetto a già quelle poche cooperative che lavorano nel mare. Questo è il territorio d'Italia, un territorio defraudato delle sue risorse primarie, che sono la pesca, la miticoltura e l'agricoltura, per farne una città industriale e militare. Sì. E questo dico per quanto riguarda le cozze. E leggiamo sul latte materno, cioè, ce n'è? Sì, no, infatti, insomma, la contaminazione leggiamo anche da, insomma, anche andando in rete si possono reperire molto facilmente informazioni anche sulla storia dell'inquinamento provocato dalla Marina Militare, ma poi anche dall'Ilva i cui lavoratori appunto sono a serio rischio di salute. Insomma, ci sono stati quasi 200 decessi per tumore in 7 anni nei quartieri limitrofi agli stabilimenti dell'Ilva, quindi insomma è veramente una situazione problematica. E leggiamo dal vostro comunicato che voi appunto giustamente fate questa chiamata a tutti coloro vogliano difendere il proprio territorio per far sì che questo non sia l'ennesimo tavolo senza frutti, perché ci sono stati, leggiamo dal vostro comunicato, anche tanti altri tavoli tecnici che però si sono risolti in un nulla di fatto. Sì, sostanzialmente diciamo questo, ma lo diciamo da tempo, anche quando si lottava contro la mega discarica di Grottaglie qua in provincia. E c'è tanti che pensano che attraverso i tavoli tecnici si possa ricucire uno strappo, riconquistare degli spazi. Questo è stato vero in parte, perché se non c'è mobilitazione che rivendica alcune questioni, per esempio qui non c'è un tumore, è un registro tumori ufficiale dove dica esattamente quanta gente è morta di tumore a Taranto, visto che i decessi sono quotidiani, ogni famiglia ha un decesso per tumore dentro casa, e quindi sostanzialmente questi tavoli a chi servono prima di tutto? Certo. E perché? a cosa servono, nel senso a cosa servono ce lo sappiamo che non serve a nulla, perché sono solamente risposte da un punto di vista solamente esecutivo testamentario, per dire ok, la questione di Taranto la sprovincializziamo, la portiamo a Roma, portiamo tre pullman, diciamo che stiamo un numero, e sostanzialmente poi le cose si ridimensionano nel momento in cui poi chi nella città dovrebbe fare delle scelte diverse per un futuro diverso le fa in maniera speculare, controversa. E io facevo il quadro prima della città, perché anche chi per tanti anni ha fatto opposizione istituzionale in questa città si è sempre confrontato con una logica del potere in questa città enorme, perché a Taranto ci sono 7 logge massoniche, è stata la città di Cito, è stata la città del piano di Gelli, e abbiamo vissuto prima del berlusconismo quello che poi sarebbe stato attraverso i media, una serie di cose, sempre attraverso l'esperienza dello xenofobo Cito, e ce n'è quanta carne si possa mettere a cuocere, qui c'è tutta. Questi tavoli, noi domani a Roma non ci staremo, però abbiamo un tavolo aperto qui di confronto con la città, in un'iniziativa che faremo in piazza, dove come assemblea portiamo quello che è e quello che può essere la risposta. Io dicevo all'inizio dell'intervista, se per il futuro della città se ne occupano i soliti noti, allora l'esito è il solito noto, praticamente è il solito noto, e altrimenti qua siamo, cioè questa è una città di guerra, ci tengono sostanzialmente asservite queste logiche, e anche la risposta sotto questo punto di vista è sempre dura. Parliamo anche di giovani che sono avvicinati a fare le cose, 15-16 anni, che gli vanno a rompere le scatole dentro casa, ci sono delle pressioni enormi. Diciamo anche che i partiti e i sindacati non aiutano in questo senso. Fuori onda parlavamo un po' anche degli ostacoli che invece mettono nei confronti del vostro modo di fare, che invece è un modo di fare completamente auto-organizzato, che parte con i movimenti dal basso. Quindi un terreno piuttosto ostile, no? Per certi aspetti, dove condurre una lotta. Ciò nonostante, però, credo anche che la vostra presenza, che sta crescendo, mi sembra di capire, negli ultimi tempi, anche come tu raccontavi, può essere forse una delle risposte più importanti a tutto quello che sta accadendo a Taranto, allo scempio che viene perpetrato da più di 50 anni sicuramente. Sì, cioè nel senso, dicevo prima, facevo un'analisi sul sistema dei partiti, cioè non è che io invento qualcosa che sia, cioè sono distanti dalle loro basi, cioè noi con quelle vogliamo collaborare, con le istanze, perché sia i sindacati confederali qui all'interno dell'ILVA, o che sia si occupa di grande industria, o i partiti sono asserviti in questa, come si dice, è una congrega del potere dove nessuno riesce a esprimere da un punto di vista istituzionale chi è il vero nemico di questa città, perché c'è gente che qui si arricchisce alle spalle degli altri, c'è gente che comunque vive bene, anche come si dice, vendendo quello che è il proprio territorio. Qui noi cioè non abbiamo nulla né da visitare né da presentare agli altri, e tantomeno non abbiamo niente in mano come città. Allora quella sfida grossa di questa assemblea, che poi magari cioè non è nulla di nuovo, è sostanzialmente mette insieme dei pezzi, i desiderati di questa città, chi è ostile a questo tipo di rapporto, la gente dei quartieri, la gente poi un po' qui siamo stanchissimi, abituati, la crisi a noi non ci ha colpito, nel senso che già ce l'avevamo. Avete sentito meno praticamente. Si colpisce di me. Quindi poi fuori da queste logiche, dico, di dove tutti stanno, e ovviamente chi dice una cosa diversa sostanzialmente può fare il bello e il cattivo tempo, ma sostanzialmente però se noi non riusciamo, no? E questa è una cosa che noi ci diciamo sempre come assemblea popolare, a riuscire, no? A determinare i tavoli, perché se il popolo determina i tavoli è una cosa. Magari hanno più senso i tavoli a quel punto. Se li autoconvocano è un'altra, certo, roba. Anche qui si diceva, il 30 marzo noi siamo stati sotto il tribunale, perché in un appendice del processo arriva per quanto riguarda le varie emissioni di diossina, i morti e i sversamenti nel Mar Piccolo. Contemporaneamente la fabbrica, ben pensato, no? Dopo aver visto che 4.000 persone nella prima volta sono state sotto il tribunale, ma non a chiedere giustizia sommaria o quel che sia, a chiedere, no? Che anche il tribunale in quel senso faccia quello che deve fare, però sostanzialmente a noi non ci è un livello di mobilitazione che si riesce a tenere e portare tanta gente sotto il tribunale. Nel secondo appuntamento l'ILVA è sceso in piazza, ci ricordava quasi i colletti bianchi della Fiat degli anni 80, con la marcia dei 40.000, sono scesi in 7.000 a difendere il proprio posto di lavoro. Perché come dicevo in prima Gino nella discussione precedente all'intervista, c'è in questo momento fortemente, no? Un dividendo, no? Che qualcuno sta creando ad arte fra, noi diciamo che sono fra i padri e i figli, perché i figli, gli studenti quelle mattine erano sotto il tribunale, i padri difendevano il proprio posto di lavoro in una concezione, cioè, assurda sotto questo punto di vista, però quasi coscientemente con quello che è il livello all'interno di quella fabbrica, continue vessazioni, morti bianche, tanta gente che è stata messa prescritta sulle liste Facebook per aderire a questa cosa della marcia, gli è stata pagata la giornata, i capiturno hanno fatto una pressione enorme su qualsiasi padre di famiglia. Ovviamente poi all'interno ricreano anche un clima ribollente rispetto a chi viene poi da fuori a lavorare in questa città, perché lì dentro si ripropone il discorso, chi fa ambientalismo puro non capisce che noi qua dentro abbiamo bisogno del lavoro, però allo stesso momento noi abbiamo il tumore e la gente che arriva da fuori, dalla provincia e cose, viene a godere di quella delle nostre, della nostra morte. D'altro canto chi in questo momento pensa che una lista civica ambientale sia meglio di un'altra cosa, dice l'esatto contrario. Cioè non valuta e non tutela quello che possono essere le ricchezze di tutta questa gente che sta lì a lavorare, perché comunque in prima persona si espone e più degli altri è malata. Cioè, la gente non arriva alla pensione all'ILVA, che non fa manco un gioco con i nipoti, che muore. Allora questa è la situazione in questa città. Noi come Assemblea Popolare ovviamente stiamo nella condizione di poter dire che se un tavolo può essere costruito per il futuro della città, va costruito, possa essere costruito in questi termini, altrimenti le speculazioni, le autovalorizzazioni, questo principio della delega, nessun mandato imperativo, a noi ci fa un po' vibrare le viscere. Eh sì, anche ma per quello noi, che dicevamo prima, poi alla fine non paga questo tipo di cose, cioè questi tavoli tecnici fatti così senza poi il consenso e l'appoggio dei movimenti nominati appunto tra tecnici politici del Parlamento e magari tecnici rappresentativi più o meno istituzionali della zona, sappiamo dalla storia che non porta a nulla, quindi tavoli tecnici servono se poi sono supportati, come bene sottolineavi tu, da mobilitazioni popolari continue che comunque vanno a radicalizzare un altro modo di organizzazione sociale, no? E poi riescono anche a produrre un conflitto diverso sul proprio territorio. Comunque da quello che dici, Giuseppe, sicuramente la situazione a Taranto è molto complessa e merita di essere analizzata con maggiore dettaglio, perché insomma le situazioni sono diverse, c'è la situazione lavorativa e quella invece ambientale, che comunque se vogliamo marciano un po' su binari diversi, quindi io penso che ci proporremo anche di affrontare successivamente, magari anche a partire dalle prossime settimane, per sapere com'è andata questa assemblea pubblica che terrete domani invece che fare il tavolo tecnico a Roma, ci proponiamo di risentirci per approfondire meglio una questione che è assolutamente complessa e merita di essere analizzata a fondo successivamente. Va bene, quindi dicevo anche prima, c'è cioè, bisogno di specifici. C'è di tutto, c'è il raddoppio della raffineria Eni, c'è una mega discarica, ci sono 72 discariche a cielo aperto. E peraltro volevo. Se ne potrebbe parlare per giorni. Sì, che noi il 25 comunque aprile, sotto questo punto di vista, questa assemblea di cui citavo prima ha convocato dal 25 mattina per le 10 un corteo per le strade della città dal titolo Liberiamoci, e coniugando, no? Il passato con il presente. Bene. In una sorta di campagna, come si dice, né referendaria né tanto di istituzionale, ma liberatoria sotto questo punto di vista. Certo, vecchie e nuove resistenze, perché lo ricordiamo, la resistenza non è quella che sta in vetrina, che partiti o altre compagini più o meno istituzionali vogliono ridurre a, insomma, a pupazzetto da mettere in vetrina, ma la resistenza, ricordare il 25 aprile significa mettere in campo percorsi di lotta e di resistenza ogni giorno, e mi sembra che voi insomma lo stiate facendo. Giuseppe, noi ti ringraziamo tantissimo, come diceva Gino prima, insomma avremo il piacere di risentirci presto per aggiornamenti, non so se hai appuntamenti da lanciare in extremis. No, in estremis vorrei solamente soffermarmi sulla scomparsa del nostro caro compagno, che in questi giorni un po' ci ha reso tutti più nudi. Un compagno come lei di quartiere, che viene dall'extra parlamentarità, un compagno che ha fatto parte di percorsi dell'autonomia operaia. Vincenzo lo ricordava benissimo l'altro giorno, e per questo lo ringrazio dell'intervista che avete fatto su alla radio. E anche noi lo ricordiamo. E negli ultimi anni Salvatore De Rosa era con noi, lavorava con noi nei comitati di quartiere, superando anche quella fase, come lui diceva, dobbiamo essere marxiani e capire che il sottoproletariato non è sempre quella infima putrefazione della società, ma è sostanzialmente anche una risorsa, dove in questo momento di crisi forte anche da parte nostra, da un punto di vista dell'Organizzazione Generale Mondiale dell'emancipazione, possa riconvergersi verso lidi più a noi più prossimi. Allora ci stringiamo anche noi in questo abbraccio e ti salutiamo, ci risentiamo prossimamente. Giuseppe, ancora grazie. Un abbraccio da Taranto a Roma. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Noi in super ritardo lasciamo subito il microfono al tappabuchi che ci aspetta al di là del vetro. Magari con un pensiero al ragazzo di Albano che è stato arrestato minorenne sabato scorso, noi vi lasciamo e ci sentiamo lunedì prossimo, come detto, lasciando spazio al tappabuchi dopo aver distratto una decina di minuti. Infatti ci scusiamo per questo, dedichiamo a questo compagno dei Castelli questa canzone di Fabrizio De André. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio.